questo venerdì 14 settembre. Intanto uno sguardo ai titoli, il Sole 24 Ore apre sulla ripresa lontana, cadono i consumi. Tra l'altro vi ricordo che oggi è in edicola 2 euro perché è in allegato anche il libro di Guido Gentili, Manovre in corso. L'apertura invece sulla situazione internazionale legata al terrorismo, Corriere della Sera, Obama di fronte alla furia islamica. Per La Stampa, assedio alle ambasciate USA, Repubblica, Islam, America sotto assedio. Mentre le aperture politiche per il giornale, adesso il PD è morto, tutti contro tutti. Il Messaggero invece, meno lavoro con lo statuto, è la frase di Monti che ha fatto discutere e fa anche dare il pretesto al Manifesto per il titolo Occupy Monti. Libero invece, sotto le tasse niente dopo 10 mesi di governo. Il Fatto Quotidiano invece, ancora la trattativa Stato-mafia, la consulta spiffera, ha ragione Napolitano. Ma io voglio partire, cari ascoltatori, da quello che ormai sta diventando sempre più sui giornali uno spazio più ampio, perché lo scandalo pare allargarsi, la vicenda dei finanziamenti finiti al gruppo del Popolo della Libertà nella regione Lazio e, secondo l'accusa della procura, pare gestiti in maniera personale, con l'apertura di 109 conti dall'ex capogruppo del PDL in regione, Franco Fiorito. L'ex capogruppo del PDL aveva aperto un conto segreto, questa è la notizia data dal Corriere della Sera a pagina 20. Ieri ci sono state tra l'altro 12 ore di riunione all'interno del Popolo della Libertà, dopo 12 ore però non si è deciso ancora nulla, con anche la rabbia del governatore Renata Polverini che dice in pratica secondo un retroscena del Messaggero, o lo cacciamo subito o rompo io l'alleanza col Popolo della Libertà. E poi vi voglio segnalare che cosa Sergio Rizzo a pagina 21 del Corriere della Sera: ce ne fossero di rogne con l'aria che tira oggi dalle parti della Pisana, cioè la sede del Consiglio regionale. La storia incredibile dei finanziamenti pubblici ai gruppi consigliari, innescata dai radicali con una meritoria pubblicazione sul loro sito del bilancio 2011, ormai una palla sempre più grossa che rotola a valle. Inarrestabile e minacciosa, come dimostra l'inchiesta per peculato che si è abbattuta sull'ex capogruppo del PDL Franco Fiorito. Ma non servivano certo le cravatte di Marinella, le cene a base di ostriche, le bottiglie di champagne, i servizi fotografici, i SUV, le altre spese sfrontate che hanno inghiottito i lauti contributi al partito di Berlusconi e sulle quali ora indaga la magistratura per capire che si era passato il segno. E tra l'altro fa una stima Sergio Rizzo ai gruppi, scrive, ai gruppi del Consiglio regionale, finiscono cifre inimmaginabili, tanti soldi che non si sa nemmeno come spenderli, basta dare un'occhiata ai due bilanci dei gruppi finora resi noti, oltre a quello dei radicali, quello del Partito Democratico. E allora il gruppo del PD, in Regione Lazio, ha incassato nel 2011 la bellezza di 2.017.946 euro, che divisi per i 14 componenti fa oltre 144.000 euro pro capite, quasi il triplo dei contributi erogati dalla Camera Montecitorio. Inutile allora stupirsi che i democratici spendano 210.000 euro, con punto esclamativo, per riunioni, convegni, conferenze e incontri, 622.000 euro con due punti esclamativi per i collaboratori e poi 738.000 euro con tre punti esclamativi per diffusione attività del gruppo e stampa manifesti. 740.000 euro per la stampa dei manifesti del Partito Democratico. Ma la vicenda riguarda soprattutto appunto il Popolo della Libertà. In questo caso c'è Francesco Merlo che fa un articolo, inizia in prima pagina su Repubblica e poi all'interno dedica due pagine, 22 e 23, Repubblica, a questo tema: ostriche e festini, Air Batman del PDL. Lo scandalo della casta ciociara, scrive Merlo, l'antigeografia d'Italia, direbbe il politologo americano Robert Kaplan, se conoscesse Air Batman, come chiamano il ciociaro Francone Fiorito dal giorno in cui cadde da una moto ferma. La guerra civile del PDL laziale per il malloppo è l'evidenza della dissoluzione proprio nella Roma della Marce, dell'impero, della destra italiana sopravvissuta alla storia, definitivamente corrotta dal denaro pubblico. Infine, i 100 milioni di spese annuali del Consiglio regionale del Lazio contro gli 86 della Campania, i 38 dell'Emilia, i 32 della Toscana sono l'ultima prova che il finanziamento ai partiti è in realtà un crimine da banda Bassotti, una vera aggressione all'erario. E a Roma, come a Napoli e come nella Varese di Bossi, l'evoluzione moderna dell'accattonaggio come professione. Questo è l'inizio dell'articolo di Francesco Merlo, sempre molto polemico e duro nella sua penna. Tra ostriche, cravatte e festini, alla Regione Lazio va in scena la destra di casta e di governo. Insomma, sembra un nuovo caso che rievoca il caso Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, cioè di finanziamento al partito che, secondo le accuse, sarebbe sparito per vicende personali. 1,5 milioni di euro svaniti nel nulla, così titola il Messaggero a pagina 12, ma anche il Fatto Quotidiano si concentra su questo con anche il controdossier. Ieri ne avevamo parlato sul Messaggero, cioè Fiorito, accusato di peculato e di aver fatto spendere dei soldi, ha fatto un controdossier sugli altri, gli altri suoi colleghi, dicendo anche quello ha speso questo, anche quello ha speso quest'altro. Allora sono uscite per esempio fuori una spesa per Veronica Cappellaro, e su questo si concentra il Fatto Quotidiano a pagina 8. Veronica, la zarina dei Parioli che voleva il book, è bionda, si chiama Veronica, ha un figlio che di secondo nome fa Silvio, ma pura coincidenza, eppure Palazzo Grazioli lo ha frequentato a lungo, quando era ancora la residenza del Presidente del Consiglio. Ha 31 anni, due figli, Veronica Cappellaro è consigliere regionale del Lazio, Presidente della Commissione Cultura, 13.000 euro netti al mese, ma non si spiega, evidentemente, se non con il fatto che non devono essere bastati, altrimenti non si spiega, secondo le fatture che circolano nel PDL romano, perché le siano serviti 1.080 euro per una ripresa fotografica, o 17.000 euro per le cene da Pasqualino al Colosseo, o altri 8.800 euro per una cena sociale al Bar Martini. E queste sono le cifre che circolano. Insomma, nuovo materiale che vi fa arrabbiare, cari ascoltatori, lo so, perché sono soldi nostri, sono del finanziamento pubblico ai partiti. La Polverini, in un retroscena anche della Repubblica, pare abbia detto: o cacciate Fiorito dal partito, cosa che però non è avvenuta, oppure me ne vado io. Ma questa storia avrà sicuramente sviluppi. Ieri abbiamo parlato delle scorte, voglio accennarvi questo articolo uscito sul Messaggero in prima pagina, uno studio del sindacato di polizia della CGIL, il SILP. Il primato delle scorte è a Roma. Oh, ne andiamo fieri qui in Italia? Si calcola che almeno 120 scorte al giorno per altrettante personalità di rilievo si muovono a Roma. Ogni giorno. A Parigi sono 41, a Londra 43, a Berlino 13, a Madrid 60, noi 120, il doppio della seconda in classifica. Ogni giorno 120 pattuglie, che non vuol dire 120 auto, perché ogni pattuglia vuol dire più auto, e dunque una stima è di costo di 2 milioni di euro l'anno. Conto finale, più scorte che volanti, a Roma il primato europeo. Ogni giorno 120 pattuglie, secondo il sindacato CGIL del il SILP di polizia, Nino Cirillo e Claudio Marincola in prima pagina del Messaggero. Continuiamo nella lettura dei giornali. Di certo non sono positive le previsioni per quel che riguarda la crescita che ieri il Centro Studi Confindustria ha reso note, perché questa è l'apertura del Sole 24 Ore: la ripresa non si vedrà prima della primavera estate del prossimo anno. Questa è l'analisi del Centro Studi Confindustria presentata ieri a Roma, e le stime sono appunto viste al ribasso, tra l'altro rispetto a quello che si prevedeva. Tutti i dettagli li trovate con Dino Pesole a pagina 2. Il titolo è: recessione più lunga, slitta la ripresa. La doppia recessione che ha colpito l'economia nazionale da quando è esplosa la crisi imporrà lo slittamento in avanti, almeno fino alla primavera estate del 2013, di una possibile inversione di tendenza, così scrive Pesole. Dunque non è all'orizzonte alcuna svolta ciclica, e tutti elementi che inducono il Centro Studi di Confindustria a mantenere invariata nelle nuove previsioni presentate ieri la stima di una contrazione del PIL del 2,4% per l'anno in corso, ma a ritoccare purtroppo al ribasso la previsione per il 2013, -0,6% contro il precedente -0,3%. Insomma, siamo in piena recessione. E, tra l'altro, sul mercato del lavoro e sulla ripresa, ma soprattutto sul tema del mercato del lavoro, ieri si è innescata una polemica con le dichiarazioni del premier Mario Monti, che è tornato a parlare del tema, tra l'altro, dello statuto dei lavoratori. Lo ha fatto in una maniera ampia, ma c'è stato questo affondo sull'articolo 18 che subito ha prodotto delle tensioni con la CGIL tra il nostro presidente del Consiglio e Susanna Camusso. Perché, come racconta Lina Palmerini a pagina 7 del Sole, Mario Monti è tornato sul luogo di un precedente conflitto, proprio l'articolo 18 con i sindacati. Cosa ha detto? Questa è la frase incriminata. Certe norme dello Statuto dei lavoratori, ispirate al nobile obiettivo di tutelare le fasce più deboli, hanno contribuito a determinare insufficiente creazione di posti di lavoro. Questa è l'analisi molto netta, cioè la disoccupazione è stata creata, facilitata anche da alcune norme dello Statuto dei lavoratori. Subito la piccata risposta di Susanna Camusso, leader CGIL: penso che sia la dimostrazione che questo governo non ha idea su cosa fare per lo sviluppo e la crescita. Questa è stata la reazione, e il manifesto mette in prima pagina il premier Monti con il titolo «Occupai Monti, c'è troppa disoccupazione, è colpa dello statuto dei lavoratori, parola di Monti». Il giorno dopo l'euro bocciatura della sua direttiva contro il diritto allo sciopero, il premier, venuto da Bruxelles, torna a predicare la deregulation del lavoro. Dunque il manifesto attacca duramente Monti, e poi c'è Francesco Piccioni a pagina 2 con il titolo «Quanto lavoro senza diritti, il presidente del Consiglio scivola nell'ideologia, irrita, la CGIL chiama la risposta dei giuslavoristi». Insomma, ancora l'articolo 18, ancora le polemiche su questo. Intanto, giustamente, molti giornali si concentrano su quella che è stata la nota di Fiat. Perché? Perché in una nota del Lingotto, Fiat ha fatto sapere che il tema Fabbrica Italia è superata. Due giorni fa, quando avevamo ospite Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, candidato alle primarie, lui ci aveva detto, proprio domanda precisa, sta ancora con Marchionne? Io stavo con Marchionne sulla questione del referendum, ma Marchionne non ha mantenuto gli impegni, quei 20 miliardi di euro di Fabbrica Italia. In qualche modo ha anticipato quello che è il tema in discussione proprio oggi. Anche l'Unità mette in prima pagina l'importante notizia della nota, appunto, venuta dal Lingotto sul tema della Fiat, che in una nota precisa: il mercato è crollato, ma faremo scelte responsabili. I dettagli ci sono, se volete, sul Sole 24 Ore, pagina 7, con Andrea Malan, con appunto Fiat che è impossibile, dice, continuare a fare riferimento al piano Fabbrica Italia. Perché è importante? Perché cosa succederà da qui a fine ottobre? Il timore, appunto, è sulla possibilità che ci sia, per esempio, l'Unità lo scrive in prima pagina in maniera chiara, un vero e proprio disimpegno da parte di Fiat con l'Italia. A questo punto, scrive l'Unità, potrebbe essere una cosa più concreta. Invece, per quel che riguarda il mercato del lavoro e gli stipendi, sapete che è un tema ricorrente che ogni tanto viene fuori, è quello del tetto ai 294.000 euro stabiliti dal decreto del governo per i manager pubblici, i manager di Stato. Un tetto che, come si sa, in Italia poi ci sono tutte le deroghe, non viene mai applicato del tutto, c'è sempre qualcuno che guadagna di più. Ebbene, ieri il ministro della pubblica amministrazione Patroni Griffi ha fatto sapere che sono 18 al momento, senza fare i nomi, ma i nomi adesso li facciamo noi, perché i giornali li riportano, erano del passato, si sapeva, insomma, si sa chi guadagna oltre questo tetto. 18 i manager pubblici, i dipendenti dello Stato, che guadagnano e sfondano i 294.000 euro stabiliti da un decreto del governo. Il ministro Patroni Griffi ha assicurato ancora: non ci sarà alcuna deroga. E quindi vogliano o non vogliano, immaginiamo soprattutto che non vogliano, questi dipendenti dello Stato dovranno rientrare in questi parametri. Ma chi sono questi dipendenti dello Stato? I nomi in realtà non sono noti, non sono nuovi. Sono stati rispolverati dai giornali, presumibilmente sono il capo della polizia Antonio Manganelli, il funzionario più pagato, ricorda la stampa, con 621.000 euro l'anno. Poi il ragioniere dello Stato Mario Canzio, che ha dichiarato un reddito all'anno di 562.000 euro. Ricordate che il tetto è di 294.000, quindi meno di 300.000. Quindi Franco Ionta, che è l'ex capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le carceri, 543.000 euro. E ancora il capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, Vincenzo Fortunato, reddito a 482.000 euro. 536.000 euro. 482.000 euro c'è il generale Biagio Ambrate Abate, che guadagna appunto 482.000 euro, il generale Abrate. Questi sono alcuni di quelli che guadagnano sopra i 294.000. Lo stipendio massimo per un manager pubblico, ma ci sono le deroghe. Come sapete, ci sono sempre le deroghe in Italia. La politica. Il protagonista ieri è stato sicuramente Matteo Renzi. Ha iniziato da Verona. Noi avremo ospite il sindaco di Verona, Flavio Tosi, alle 8:15 nei nostri microfoni. Ha iniziato da Verona questo tour in camper per 108 province, peraltro un inizio fotografato e immortalato e messo sulla rete con il camper di Renzi che avrebbe bloccato il parcheggio. C'è una foto di parcheggiato per qualche minuto, ha bloccato due macchine in seconda fila. Ma come? È partito in seconda fila Matteo Renzi. Ha bloccato per qualche minuto, assicurano quelli del suo staff, non di più, due macchine che erano parcheggiate lì, è stato piazzato un attimo in seconda fila, vabbè, ma al di là di questo, il tema che più si dibatte sui giornali è l'appello che Renzi ha fatto anche ai delusi dal Popolo della Libertà. Cari elettori del Popolo della Libertà, che avete votato Berlusconi, siete pronti a votare Renzi a questo punto? Perché questo è l'appello che ha fatto Renzi, dice non mi scandalizzo, non c'è problema se volete votare me. Renzi si fa una nuova Italia e cerca i voti dei delusi del PDL, questo è il titolo del Corriere a pagina 18, in maniera esplicita il manifesto titola così: Renzi va alle primarie ma del PDL. Ecco, questo appello non è piaciuto anche a Massimo Cacciari, intervistato da Antonella Rampino per La Stampa, pagina 7, esordisce così: cosa ha fatto Renzi? Ha chiesto i voti del PDL. Ma come si fa? Ma non corre per il PD? Siamo alle barzellette, alla farsa, alla pochade. Io non sono mai stato un patito delle primarie, ma è evidente che occorre un minimo di regole. Ma già adesso chi va a votare firmando il registro e versando l'obolo che gli viene richiesto sottoscrive di fatto il programma dei candidati per cui vota. Siamo un paese preda dei pazzi, risponde Cacciari. L'unica reazione logica mi pare proprio quella di Alfano, che ha risposto a Renzi: vota tu per noi. Non si può fare quel che ha fatto Renzi, ma stiamo scherzando, mica sta facendo come Obama, che vinte le primarie in cui ci si confronta anche duramente sui programmi dello stesso partito, chiede legittimamente i voti per diventare presidente a tutti gli americani. Il modo di comportarsi di Renzi è come se Obama avesse chiesto i voti dei repubblicani alle primarie per battere i candidati del suo stesso partito. È un'arlecchinata, una buffonata assoluta. È come mandare il cervello all'ammasso. Ecco, questa è l'analisi spietata di Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, sull'appello di Renzi. Tutti puntano su questo, anche il Secolo XIX, la sfida del genero d'Italia, che chiede i voti al PDL. Renzi, berlusconiani, venite a me. Questo è il titolo del Secolo XIX, con Renzi che ha ammesso, tra l'altro, dice: io trascurerò un po' la famiglia in questi giorni, tra l'altro mio figlio 11 anni ha detto: pur di farti stare un po' a casa io voterei Bersani. Ma qui ha fatto la frecciatina Renzi, Igor Bersani ha 11 anni, così qualunque regola possiate fare per le primarie, il suo voto non potrà averlo mai. E intanto Silvio Berlusconi è sempre in silenzio, e questo silenzio forse verrà rotto oggi, forse. Però Berlusconi era entrato dal Kenya, dove era andato a fare un po' di relax da Flavio Briatore, è rientrato nella notte. Oggi è atteso alla festa di Atreju, quella dei giovani organizzata dall'ex ministro Giorgia Meloni. Andrà? Non andrà? Secondo il giornale, tra l'altro il giornale è molto informato perché ha organizzato una crociera questo weekend alla quale Berlusconi parteciperà, da due giorni la crociera del giornale, e quindi... Il giornale segue con attenzione ovviamente Silvio Berlusconi, e oggi ad Alberto Signore a pagina 4 scrive che Berlusconi, che sa che ha lasciato appunto Roma per destinazione Malindi, non aveva gran voglia di andare ad Atreju, e difficilmente le cose sono cambiate in questi giorni. Tutto si deciderà nel primo pomeriggio di oggi. Chi dà per scontata la sua presenza alla manifestazione azzarda e basta. Giallo sulla presenza ad Atreju. Silvio tiene l'asso nella manica, c'è chi dice che stia in silenzio in attesa intimamente che la candidatura di Renzi spacchi il centro-sinistra, e che quindi stia lì in attesa di vedere gli avversari politici che siano in difficoltà per poi calare l'asso della manica, ma in realtà nessuno sa quale sia questo asso della manica. Certo, l'intervista di Concetto Vecchio su Repubblica a Micaela Biancofiore, 41 anni, bolzanina, deputata del Popolo della Libertà, tra le più vicine a Berlusconi, è qualcosa di leggendario, oggi non potete perderla. Silvio, torna, ci manca il tuo esempio di vita. Questo è l'appello di Micaela Biancofiore, che dice: per i liberali, per il bene del paese, dico, deve assolutamente tornare a Palazzo Chigi, deve candidarsi. Questo è Silvio Berlusconi per la Biancofiore. Ma guardi che perfino Feltri gli ha detto che stavolta perde. È un modo per spronarlo. Lei lo sa che la gente lo ferma, lo blocca, lo invoca. Silvio, torna, gli dicono. E lui che risponde: l'ho visto con i miei occhi. Gli imprenditori li vogliono bene, lo vogliono conoscere, è una persona apprezzata, stimata anche all'estero. Guardi che la Merkel mica tanto lo stima, per esempio. Ma diciamo le cose come stanno, risponde l'onorevole Biancofiore. I tedeschi ci vogliono deboli, e Berlusconi ha sempre difeso gli interessi dell'Italia. Insomma, Silvio ci manca, manca il suo esempio di vita. E questo è chiaramente un assist per l'intervistatore, che gli chiede, si riferisce al Bunga Bunga: ma non mi riferivo alla vita privata, ma a quel che ha rappresentato come imprenditore, perché per gli italiani lui rimane prestato alla politica. E comunque nella vita privata ognuno fa quello che vuole, io sono una liberale. Questa è l'intervista che trovate su Repubblica. Berlusconi in realtà è in silenzio, e chissà se oggi parlerà. Altre notizie che trovate è il tema della trattativa Stato-mafia. La consulta, secondo rumors, che ovviamente il Quirinale non conferma, sarebbe pronta a considerare ammissibile il conflitto avanzato dal Quirinale con la Procura di Palermo per le famose intercettazioni a Nicola Mancino, in cui è finito anche il Presidente della Repubblica Napolitano. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano, che ormai non passa giorno senza che apra su questo tema. Praticamente la consulta spiffera, ha ragione Napolitano. In realtà la decisione sarà di settimana prossima anche per il Corriere, però questo è l'orientamento della consulta della Corte Costituzionale, consulta pronta ad accettare il ricorso del Colle sui PM. Che dire di cronaca? Devo segnalare due cose se ce la faccio, se no una molto veloce. Una è successa al Gran Premio di Monza, riguarda la scorta del ministro Elsa Fornero e la scorta anche che era al servizio del sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura. È una notizia che da Repubblica: fateci entrare in pista, siamo con la Fornero e al Gran Premio di Monza spuntano le pistole, spunta anche una pistola. Pagina 21, Marco Mensurati racconta: Il punto di non ritorno è una pistola che spunta dalla fondina delle guardie del corpo del ministro Elsa Fornero per intimorire l'addetto alla sicurezza dell'autodromo di Monza e permettere al codazzo al seguito dei politici di accedere alla griglia di partenza. Ieri dall'Inghilterra mi hanno chiamato gli uomini di Bernie Ecclestone, si sfoga così il direttore del circuito Enrico Ferrari. E ho provato un senso profondo di umiliazione. Non possiamo andare avanti così, ogni anno è sempre peggio, bisogna adottare il numero chiuso per i politici in griglia. Sarebbe successo questo al Gran Premio di Monza quando due accompagnatori del ministro Elsa Fornero e del sottosegretario Staffan de Mistura, fermati in una zona dove non potevano entrare, avrebbero contestato forzando il blocco, parole pesanti, spintoni, a un certo punto mostrando anche la pistola, ottenendo ovviamente così immediatamente il via libera. C'è da dire che Repubblica ribadisce: il ministro Fornero, il sottosegretario De Mistura erano già entrati, non si sono accorti di nulla di questa vicenda, ma certo, se è così, è davvero qualcosa di inquietante. Fateci entrare in pista, lite tra la scorta e gli addetti alla sicurezza al Gran Premio di Monza, l'autodromo ora dice basta politici, certo, soprattutto se brandiscono gli uomini della scorta una pistola esibita per entrare.